Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. McGeady, grande prova anche di carattere dell'Irlanda. Houlahan prova il traversone. L'Irlanda ha meritatamente il vantaggio con Brady, il migliore uomo. Fischio finale, l'Irlanda va a prendersi il commovente abbraccio del suo popolo, vince 1-0 contro l'Italia e passa agli ottavi di finale. Penso sicuramente che il campo abbia favorito più loro in questo tipo di situazione, però ecco, gli va dato merito che ci ha messo tanta foga, tanto ardore, perché per loro era la partita della vita. Però io ho avuto delle buone risposte da parte dei ragazzi, perché quelli che hanno giocato hanno dato tutto quello che avevano, hanno risposto colpo su colpo. Forse siamo stati puniti nel nostro momento migliore con questo gol, onore a loro perché l'hanno voluta fortemente questa qualificazione. Alla fine sono stati premiati, forse più del dovuto, però sono stati premiati. Di giocare un ottavo di finale contro la Spagna ci deve dare sicuramente entusiasmo, così come l'abbiamo avuto quando abbiamo affrontato il Belgio, che sulla carta sembrava nettamente superiore a noi. A rendere un po' più dolce questo pomeriggio dopo la partitaccia di ieri con l'Irlanda è arrivato il mio amico. Sì, beh, insomma, non è che posso fare molto, anche se ti dico ieri ci facciamo compagnia, un'amichevole, dai. È stata strana, perché amichevole da una parte, quella azzurra. Posso dire una. È stata fega di partita. Come Italia-Svezia, con la differenza che Italia-Svezia segni. Peggio. Sì, un pochino peggio come occasioni concesse. Sì, questo senz'altro. Poi bisognerebbe anche valutare la forza delle due squadre. Un po' peggio, in effetti, dal punto di vista della tenuta difensiva, perché contro la Svezia praticamente non avevi mai rischiato. Dal punto di vista della produzione offensiva, siamo lì. Poi sì. Prendi un palo in situazione di Insigne, fra l'altro identica a quella di Eder della partita precedente. Precisa identica, sì. Dal punto di vista comunque del non gioco, diciamo, due partite brutte dell'Italia, questa peggio dell'altra, perché ieri sera sinceramente non ricordo tre passaggi di fila da parte di quelli in maglia azzurra. Poi possiamo parlare del campo. Sì, ieri ci poteva essere addirittura la possibilità di vedere una squadra un paradossalmente più propositiva, no? Sì, certo. Nel senso che ieri comunque avevi una serie di giocatori diciamo alternativi, al di là di Thiago, che sappiamo almeno dal punto di vista teorico dovrebbe dare comunque più regia, ma avevi per esempio Bernardeschi, che era un giocatore che poteva darti un po' di idee. Il peggiore in campo. Si sono visti Insigne, che non ha fatto certamente male, ed El Shaarawy, sia pure soltanto nei minuti finali. Cioè ieri avevi delle soluzioni anche un po' alternative, quindi era lecito aspettarsi magari qualcosa di più dal punto di vista della produzione offensiva, e questo invece non è arrivato. A me sembra che siamo questi. E poi il risultato condiziona gli umori, per cui dopo la prima vittoria eravamo estasiati, dopo la seconda pure, adesso un po' meno. Ma l'Italia è questa, l'Italia ha una sola idea, che è quella di aspettare e ripartire, combattere, ed è fra l'altro l'idea che in questa parte feroce del tabellone serve di più, perché abbiamo il paradosso vero è che tu hai adesso tutta una serie di avversarie, una sicura, le altre speriamo che arrivino potenziali, che ti in ogni caso ti porteranno a dover fare quel tipo di partita, che è quella che noi preferiamo. Sì, certo, è quella che noi preferiamo, magari da sfavoriti, magari aspettando, esatto, gli avversari. Certo, anche dal punto di vista dell'organizzazione bisognerà muoversi meglio rispetto a ieri. Sull'ultimissima pagina, comunque, il nome non dell'assassino, ma dei sopravvissuti a questa strana odissea che è stata la prima fase. Poi vedi, c'è un tabellone A e un tabellone B quasi. Vedi dove è messo il Belgio e vedi qual è il cammino del Belgio, che giocherà contro l'Ungheria e poi la vincente tra Galles e Irlanda del Nord. Non guardarlo. Lascia sta, anche perché veramente, poi posso dirti, se c'è una squadra che questa roba qui non la devi guardare, siamo noi. Sì. Perché noi siamo veramente, ma lo dico, secondo me, magari andando a spulciare tra le 16 rimaste, un'altra squadra con queste caratteristiche ci potrà anche essere, magari conoscendole meglio, ma siccome noi ci conosciamo bene, noi siamo veramente una squadra che può giocare alla pari con la Spagna e può perdere con l'Irlanda. Questi siamo noi, regina degli underdog. E quindi se c'è un, al di là di tutti i discorsi giustissimi che fa Cruciani, che era meglio arrivare secondi, non c'è dubbio che era meglio arrivare secondi, era meglio evitare la Spagna, non c'è dubbio. Però se vogliamo consolarci, è chiaro che questo tipo di percorso tattico che avremo davanti è il nostro congeniale. Quindi abbiamo gli avversari più forti, ma esattamente come è successo contro il Belgio potremmo fare quel tipo di partita lì. Speriamo che anche il risultato sia uguale. Qualcuno che invita a dire che Insigne in panchina è uno scandalo con diverse O. magari dopo analizziamo Insigne è il talento dell'attacco dell'Italia. Io credo che non ci sia discussione. De Luca, sei d'accordo? Sì, poi De Luca è anche un pochino di parte, ma no, ma qui non è questione di essere napoletani, romani, fiorentini, calabresi o torinesi. Qui il punto è che Insigne certamente è il giocatore di maggiore talento dei nostri attaccanti. Questo tipo di modulo che Conte ha scelto non lo aiuta, quindi 3-5-2 certamente non lo aiuta, perché non è una seconda punta di tipo tradizionale, quindi fa un po' fatica, però in effetti, insomma, il messaggio dell'ascoltatore ci sta. Sì, può essere anche giocatore tattico per il prossimo o, ci auguriamo, i prossimi turni. Voglio chiedere agli ascoltatori se la fiducia si è incrinata dopo ieri sera. 800 24 00 24. Pier, prima della borsa, del traffico, ti voglio far sentire una cosa, perché poi parliamo dei, magari se vuoi, dell'MVP in campo, del miglior giocatore della prima fase, secondo me Bale, secondo te non so. Però c'è chi certamente ha già vinto questo titolo, tifosi irlandesi. Mamma mia, spettacolare. I migliori in assoluto. Ieri hanno anche cantato l'inno di Mameli. Poi è stata una prima fase complicata dal punto di vista dell'ordine pubblico, anche troppo complicata, forse imprevedibilmente complicata. I tifosi irlandesi l'hanno vissuta invece così, cantando con la polizia. For the French police, stand up. For the French police, stand up. For the French police. Beh, straordinario, sì, guarda, stand ma up ti posso for the dire, French police. Qui adesso bisognerebbe chiamare, cioè abbiamo un sociologo qui a Radio 24, qualcuno, fammi vedere. Che ne so, forse Nicoletti potrebbe essere uno che può darci una mano, perché è interessante questo tema, nel senso che io mi rifiuto di pensare come potrebbe semplicisticamente apparire che ci siano popoli migliori di altri, migliori, diciamo, più pacifici, più allegri, più divertenti, che hanno una socializzazione meno violenta. Però in effetti poi quando tu vedi questo spaccato d'Europa in questa giornata nella quale siamo qui tutti col fiato sospeso per il Brexit, possibile, spero di no io personalmente, ma alla fine questa domanda te la fai, perché certo. È possibile gli irlandesi, io me li ricordo anche nel 2012 quando abbiamo giocato a Poznan, cioè, gli irlandesi ti ricordi sono così, anche i famosi hooligans danesi, ma, no? Sì, ma cioè, esistono delle tifoserie che hanno una felicità addosso, un'allegria addosso che francamente ora non so se questo tipo di concetto possa essere così allargato al paese, però insomma è interessante, no? E invece poi i casini più o meno li fanno sempre gli stessi, esatto. Tra l'altro le nazioni dell'est a parte la Croazia che magari vincerà, però se guardi quelle sono uscite, è uscita la Russia, è uscita la Repubblica Ceca, è uscita l'Albania, purtroppo è uscita l'Ucraina, insomma mi pare. Vittoria del Regno Unito più l'Irlanda, sì. E bocciatura del calcio dell'est. Prima del traffico, però te ne faccio sentire un'altra, l'ultima. Vai. Perché a loro piace molto cantare. Allora vanno in metropolitana, incontrano un bimbo che dorme e gli cantano l'inno nanna. Tutti convocati. Tutti convocati. Dalle sconfitte c'è sempre da trarre gli insegnamenti, come quella di stasera sicuramente è che sotto il profilo della cattiveria agonistica forse dovevamo dare qualcosa in più, e anche a livello di palleggio siamo stati poco lucidi e con poca personalità. Sono entrato per dare una mano alla squadra, non ci sono riuscito, però l'importante è che siamo stati uniti, peccato che abbiamo preso il gol all'ultimo, ma dobbiamo guardare avanti perché il lunedì c'è un'altra partita più importante e da ora pensiamo alla partita con la Spagna. Questi Bonucci e Insigne, conosco bene le nostre mascherine. Oggi è il giorno delle critiche, ci sono già diverse telefonate, 800 24 00 24, e allora prima ti ho detto di Insigne, poi ti dico che il Sharawi dovrebbe giocare perché da quel, su quella fascia è il migliore che abbiamo, poi ti posso dire ma in attacco senza la tecnica di Vasquez perché lasciarlo a casa, e oggi è il giorno in cui ognuno avrà da dire la sua. Ma prima Pierluigi Pardo che è qui con me, Dario Ricci nostro inviato, buongiorno, la notte dopo l'Irlanda? Ben trovati ragazzi, beh intanto è stata lunga perché pensate noi siamo ripartiti col treno da Lille questa mattina alle 5:30 e aprendo il portone di casa dove stavamo mi sono trovato davanti ancora tutti gli irlandesi che stavano per Russo il Ferino, diciamo discretamente alticci ma simpatici come avete descritto voi. Segnalo la chicca della maglietta con la scritta Fuck Schillaci a ricordare l'Irlanda, a ricordare il gol di Italia 90, ma poi con questo che c'era questa maglietta ci siamo abbracciati e ci siamo fatti pure le foto. Quindi risveglio solo in questo dolce, poi il viaggio di ritorno è stato chiaramente contraddistinto dai dubbi che questa partita ha sollevato. Tra l'altro adesso alle 15:20 allenamento, come d'abitudine Conte lo ha anticipato all'ultimo minuto perché inizialmente era prevista alle 17, poi cambio repentino invece alle 15:20, vuol dire che vuol tenere un po' sulla corda anche noi giornalisti. E di fatto i dubbi sono quelli che voi avete evidenziato e sono legittimi perché questa partita, che poteva essere anche derubricata a semplice sgambata, è stata sovraccaricata dallo stesso CT di significati, quindi se questi significati gli ha dati lui allora consideriamola come una partita importante e quindi anche le critiche pesano un po' di più secondo me. Sì, sono d'accordo, e poi resta comunque il fatto che c'erano giocatori che dovevano mettersi in vetrina, che potevano mettere qualche dubbio nella testa del CT, ma non sono stati brillanti, a parte Insigne, no Pier? Sì, Insigne è stato brillante. Zarza però... non è spiaciuto, per dire, però no, l'attaccante però... tattico che è stato un allenamento su questa stagione. Cioè la verità, secondo me, è che possiamo discutere di Jorginho, di Bonaventura, di Vasquez, possiamo discutere di tutto quello che volete, mentre sento dei rumori... Eri tu? No. Un rumore tutto a posto, è brutto quando comincia a sentire dei rumori. Ascoltatori, se sentite anche voi dei rumori come me, chiamate 800 24 00 24, anche, no, la polizia eventualmente, e anche l'ambulanza con Cruciani e Parenzo. No, il punto secondo me è questo, che è vero che abbiamo del talento lasciato a casa, però senza che nessuno ti offenda non mi sembra un talento così clamoroso. Voglio dire con Jorginho, Bonaventura e Vasquez, che tutti e tre potevano essere convocati, e sicuramente tutti e tre potevano essere convocati, non lo so, cambiava il passo di questa nazionale, non lo so, non credo francamente, con tutto rispetto per tre giocatori che mi piacciono. No, ma adesso adesso allargo a te i prossimi ospiti. Comunque Fax Killaci, lo ricordiamo, è una citazione di un film che era The Van, Due sulla strada, un film degli anni 90, irlandese, con questa storia di questi della working class irlandese che mettevano su un camion e vendevano dog, se non sbaglio, adesso alla memoria, però insomma... Tratto dal libro di Roddy Doyle, mi pare. Exactly. Well, you just go on, getting back, go on. So, allora, Ricci. Eccomi. Ma adesso, sì. Che sintesi farà il professor Conte lunedì? Cioè, di quelli che abbiamo visto ieri sera, diciamo, delle riserve che abbiamo visto ieri sera, chi è che può ambire a una maglia da titolare? Oppure nessuno? Guarda, secondo me nessuno, però, visto che dobbiamo anche fare... Per accompagnare questa nazionale dobbiamo fare tutti, secondo me, un po' una professione d'ottimismo, no? Perché la cifra tecnica l'abbiamo individuata, è questa qui. Quindi, per esempio, sono d'accordo con te sul fatto che più gli avversari sono difficili, meglio questa squadra si trova. Perché c'ha testa libera, c'è la possibilità di fare il suo calcio, e c'ha la possibilità di consolidarsi come sporca dozzina, visto che poi il dodicesimo è il più importante, cioè il suo allenatore. E quindi lo stato mentale è la cosa migliore. E poi comunque una partita così straniante come è stata quella con l'Irlanda, perché non bisognava prenderle ammonizioni, ma era una partita seria, quelli la giocavano al massimo e tu invece per te poteva essere un amichevole. Alla fine ha messo in ritmo pure questi giocatori, queste seconde linee che comunque Potrebbero tornare utili anche per 5 minuti nella sfida più importante. Gli ha fatto assaggiare il campo. Dario, ti ringrazio, ci sentiamo più tardi. Ci sentiamo comunque ogni giorno. Grazie. Più volte al giorno con Dario Ricci, nostro inviato, dai piani alti di Sky, come sempre. Oggi Ricci, hai sentito che voce? Sembra veramente. Dove sei Ricci? Dove sei? Si è svegliato presto. Sei? Io sono qua a Montpellier, al terzo piano. A Perol, che è un sobborgo di Montpellier, non sa neanche dove è, non si rende conto di dove si trova. Aspetta, ma il paese, qual è Ricci? Qual è il paese? La nazione di riferimento? Che bandiere ci sono? Perol, il paese della Fra. Mi piace come allora. Nome perché già dall'idea di un aperitivo, infatti adesso mi faccio una birretta perché gli irlandesi Ricci, m'hanno fatto venire una voglia. Dobbiamo parlare un po' del tuo rapporto con le birre, perché non puoi ogni collegamento diretti stai per fare una birretta, dai, su. Abbiamo fatto cocomero e birra. Oggi abbiamo fatto cocomero e birra. Senti la romanità di cocomero. Cocomero e birra. Dario, grazie, fammi salutare Federico Ferri. Poi. Ciao Fede. Ciao, buongiorno. Ciao. Come a va? Tutti. Come si dice auguri a Torino? Non sono all'altezza della profondità della voce di Ricci, eh? Ricci. No. Senti, ma si dice auguri a Torino, no? Sì. No. Come si dice? Non mi sembra. Cocomero, come si dice? Anguria. Anguria. Perché vedi, Ricci che è romano dice cocomero. De Luca, tu come dici? No, auguri. Cocomero. Federico, stavamo discutendo, oggi è il giorno di quelli che, come sai, di quelli che, e poteva mettere quelle, poteva mettere quell'altro. Io noto che per la prima volta, non so, a mia memoria, ed è, insomma, sono abbastanza datato, non ci sono i soliti tormentoni sui sostituti. E Rossi sì e Rossi no ai mondiali dell'82, poi sono Mancini e Del Piero e Totti e Cassano e Balotelli e metta Cassano e metta quell'altro. In questa nazionale non è che ci sono tante discussioni. No. Non ci sono dualismi, non ci sono discussioni, anche perché la scelta del commissario tecnico era ed è piuttosto ristretta. Queste polemiche, devo dire, non ci sono state e non ci saranno, anche in virtù dei due risultati precedenti alla partita di ieri. La partita di ieri non conta nulla, cioè nel senso non conta nulla né per come si è disputata né per la qualità della prestazione. Non era un amichevole, cioè, poteva contare questo sì moltissimo per chi degli otto, mi sembra fossero otto, sì, perché Barzagli e Bonucci, escluso ovviamente Sirigu e Buffon, però chi di questi poteva mettere un dubbio a Conte, e secondo me non gliel'ha messo. Parlo degli attaccanti in modo particolare, ma ancora di più, non so, penso al tipo di partita che potremmo fare contro la Spagna, ad esempio a Sturaro. Sì. Non credo che dalla partita di ieri siano arrivate indicazioni per Conte che possano mettere in dubbio quella, la formazione che già sappiamo sarà. Guarda, forse è l'unico insigne che... Ma mai dall'inizio. Mai ecco, dall'inizio. Sì, insigne per che... Conte, per Conte non è mai dall'inizio insigne, questo ve lo posso dirlo, ma non perché lo pensi io, ma perché credo che Conte, so che Conte pensa che Insigne è un giocatore che può cambiare la partita in corsa, un po' come faceva con Giovinco nella sua prima Juve. Non è un giocatore che gioca dall'inizio, certamente Insigne e potrebbe essere uno dei cambi se sarà necessario, questo sì, e questa è un'indicazione positiva per Conte. Sì, per tutti gli altri mi sembra che hanno perso un'occasione. Hanno perso un treno, certo, lo chiedo sia a te che a Pardo. Tu dici partita che non contava nulla, partita strana, da una parte era un amichevole, dall'altra parte una partita in cui ci si giocava la vita, quindi un amichevole solo per una delle due contendenti, quindi qualcosa molto di particolare. Però tu dici non contava niente per noi, siamo tutti d'accordo da tutti i punti di vista che tu hai elencato, compreso, ti domando io però, quello emotivo? Sì, secondo me sì, perché c'erano già tre quarti della squadra che si stanno allenando da quattro giorni per l'altra partita. Cioè, davvero, emotivamente può essere una partita che farà sentire le riserve ancora più riserve da un certo punto di vista. Poi tutto può cambiare se magari uno entra alla panchina e fa una gran cosa con la Spagna. Però davvero io credo che per Conte conterà, perché si aspettava una risposta diversa da alcuni giocatori. Per la partita contro la Spagna secondo me non cambia nulla. Posso dirti che provocatoriamente che è quasi meglio così. Da un punto di vista psicologico secondo me è meglio così, nel senso che credo che questa sconfitta darà a Conte un ulteriore strumento per fare quello che sa fare meglio, cioè motivare la squadra. Non ce n'è bisogno per la partita contro la Spagna, però io credo che arrivare con le orecchie un po' basse, arrivare veramente da underdogs, da sfavoriti, sia un ulteriore piccolo migliore, vantaggio, tanto più che poi in realtà dei titolari veramente ne abbiamo visti un paio e basta. E diciamo, semmai quello che ieri ci ha deluso è stata la conferma del fatto che questa squadra non ha gioco, detto in grande amicizia, sì, cioè sì, che questa squadra quando deve impostare la partita contro squadre di livello pari o inferiore fa moltissima fatica. Questo si è visto con la Svezia, dove però eravamo tutti felici perché abbiamo vinto, si è vista ieri dove siamo tutti infelici perché abbiamo perso. Però dal punto di vista psicologico forse addirittura ci aiuta, quantomeno dà uno strumento in più a Conte per fare il martello, cosa che lui sa, certo, fare a prescindere. Certo. Un'ultima cosa, Federico Ferri, il tabellone più pazzo del mondo. Dicevo ieri, mancano solo l'Argentina di Maradona, il Brasile di Pelé, i Chicago Bulls di Michael Jordan e Freddy Krueger. Possiamo aggiungere qualche altro mostro della letteratura? Beh, Springsteen. Mettiamo Springsteen, dai, che sta bene dell'Italia. E Federer. Anche Federer. Beh, anche Cleveland a questo punto mettiamo. Mettiamo, no? Cleveland di LeBron James. No, è vero, è curioso, e figlio a metà di un problema di regolamento e di chi ha pensato il tabellone, e a metà anche dei risultati, perché se la Spagna fosse arrivata prima, se l'Inghilterra fosse arrivata prima, probabilmente cambiavano le cose. E va detto che questa è una formula molto criticata, molto contestata, che certamente ha dei margini per essere contestata, però è anche vero che ci ha regalato comunque un'ultima giornata divertente. Sono d'accordo, sono d'accordo. Infatti litigo tutti i giorni con Cruciani su questo punto. Anch'io sono d'accordo con te. E due, questo sì, ieri a Sky Euro Show Stefano De Grandi sosteneva una cosa secondo me molto interessante, cioè del non assegnare le migliori terze così un po' in modo preordinato, ma attribuire un valore, come succede ad esempio in Sud America, se non sbaglio, nella Libertadores, cioè, attribuire un valore ai punti fatti nel girone, sì, che peraltro farebbe acquisire ancora più valore alle partite. Questo del girone stesso, per dire, noi l'Italia ieri avrebbe dovuto impegnarsi al massimo per vincere, per arrivare a 9 punti e per ottenere una squadra più scarsa. Questo potrebbe essere un elemento di miglioramento in una formula, ripeto, che io, al di là di questo tabellone figlio anche un po' del caso, migliorerei così. Insomma, ma non in assoluto. È il tabellone, Federico, quello che l'elemento che complica le cose e che le rende così. Poi vabbè, è successo di tutto, perché in tutto questo poi certo, Inghilterra e Spagna non hanno vinto i loro gironi, altrimenti parleremo di una cosa diversa. Questa è ovvio, no? Tu metti Inghilterra, Portogallo e Spagna sul lato debole del tabellone e già torna a essere una cosa, sì, decente, no? Poi si può discutere, Francia, Germania, Italia valgono di più. Dobbiamo fermarci per la borsa, se no ci ammazzano. Federico, grazie. Grazie, Federico Ferri. Alla prossima. Ciao, borsa. Bene, molto bene. Il Trap apprezza, lo sentite? Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. JP Morgan Asset Management vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Tifiamo per tutti i tifosi. SNAI Easy Play. Play with the playmakers. Che dire? Arrieccici. Convocati. Dalmi, Pirotto, e me, Parinotin, e me. Questo non è il telecronista colombiano, cioè cileno, che ha festeggiato la vittoria del Cile nella semifinale di Coppa America, parentesi Argentina-Cile, e credo che agli Albi Celeste possa venire qualche incubo. Gli islandesi, popolo di ghiaccio. Sì, fino a un certo punto. Questo è il telecronista islandese al secondo gol dell'Islanda. Immaginate lui che urla così in piedi sul banchetto. Ma questo mi dà gioia, perché questo mi fa pensare che i tedeschi siano veramente solo un'anomalia. È presente la telecronaca tedesca, come in realtà telecronaca e radiocronaca sono due cose diverse, no? Nel senso che in telecronaca chiaramente ci sono più pause, ci dovrebbe essere più scansione, però anche sicuramente con più pause, e alla radio chiaramente il ritmo è più continuo, perché se stai zitto sembra che non ci sia frequenza. Questo credo sia un radiocronista, credo, quindi radiocronista ci sta che insomma sia, però bene, molto bene, ho capito direttamente tutto, anch'io ho capito tutto. Cicurcion, direttamente dall'Islanda, questa dimostrazione della del distacco, della freddezza dei popoli nordici. Vabbè, questa cosa che com'è, un islandese su 8 è in Francia, un islandese su 8 l'8%, quindi un islandese su 12,5 ogni 12 islandesi e mezzo uno sta non in, in Islanda, ma mi chiedo a questo punto gli effetti sul PIL. Adesso non voglio fare dobbiamo chiedere a Oscar Giannino questo perché lui saprebbe essere estremamente preciso. Marco, però, buongiorno. Sì, salve, buongiorno Marco, scusa, c'è notizia. Passo indietro su perché era meglio la Spagna che la Croazia. Ieri non sono riuscito a prendere la linea. Allora, io credo che contro l'individualità della Croazia, probabilmente il gioco italiano è più avvantaggiato, cioè quei funamboli là, poi è gente che si demoralizza una volta che il risultato non va a suo favore. Con la Spagna invece è vero che la difesa è più debole, però gli devi portare via la palla, insomma, cioè questo è il discorso. Mm. Sì, poi ci sono diverse correnti di pensiero, per esempio Gianni Mura sostiene che la Spagna è meglio della Croazia perché sono più furbi, sgamati, smaliziati, più simili a noi e più difficili da contenere in velocità. Però chi, i croati? Sì. Ma io penso che gli spagnoli siano più abituati e più forti in generale. Cioè, che notizia avevi da dare? No, Omellon, che prima De Luca ha ricevuto anche dei messaggi da Napoli, dice che il cocomero o l'anguria a Napoli si dice Omellone. Va bene, De Luca, pensavo che fosse Ogogomer. Non c'è Ogogomer. Non c'è, proprio non esiste. E il melone, scusa, il melone come lo chiamate? Melone. Uguale. Vabbè, ma non è possibile che adesso c'è due cose diverse. Vai a comprare un melone, uno torna con quello rosso e l'altro con quello arancione. Ma chi? Quell'altro, chi se t'avevo detto quell'altro? Chiediamo scusa ovviamente per il mio drammatico accento agli amici napoletani, però insomma sì, melone, pare sia melone. Salutiamo anche il papà. Attendiamo comunque ampie conferme. Nico, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Salve. A Milano è l'anguria e non si discute, giusto? L'anguria. Senti, due cose sono sui tifosi. Guarda, ieri sera mia figlia è a Dublino, fuori Dublino per uno stage con la scuola, e ieri sera mi ha chiamato entusiasta perché hanno visto la partita con il gruppo italiano in un pub appunto dove soggiornano, e ha detto che è stata un'esperienza quasi mistica, ha detto di una bellezza, ha detto che lei ha passato il tempo a guardarsi in giro e non guardare i televisori, perché c'erano vari televisori su cui trasmettevano la partita, perché era uno spettacolo vedere questa gente e la passione è sportiva, cioè ha detto non ho sentito assolutamente in tutto questo casotto fai urlare, cioè non ho avvertito una vibrazione. Bravo. Vibrazione è la parola che stavo usando io. Sì. Ma è così, insomma, abbiamo offerto anche qualche dimostrazione sonora, ma non è neanche una novità questa, ed è meraviglioso, invidio molto tua figlia a Dublino perché deve essere stato uno spettacolo fantastico, a nostre spese, ma uno spettacolo fantastico. Emiliano Mondonico, buongiorno. Buongiorno, mentre il mio amico Alessandro mi ricorda che si dice melone cantalupo, cioè quello arancione. Come lì come lo chiamate il melone? Anzi, il cocomero, l'anguria, mister. Come? L'inguria. Che è anguria? Inguria, come i. Perché è l'inghiria? Cos'è l'inghiria? Suco e meloni sono stagioni. Cosa? Suco no, e meloni ai sono stagioni. Ecco, adesso. Cioè la zucca, il melone. Ah, ecco la zucca. La zucca per... alla propria stagione. E perciò questo è rivolto ai giovani, dove suco e meloni, la suco è la testa. Al melone è ancora la testa che deve maturare in una certa stagione. Certo. Suco e meloni che sono stagioni. Ditemi in Giuria. Noi siamo uomini della bassa, caro, caro Mundunic. Allora, no, Mundunic, che è Mundunic? Mundone. Mundone. Allora, com'è che l'hai vista? Com'è che l'hai vista la nazionale? Ti è piaciuto l'Al-Sharawi? Ma l'ho vista bene, dai. Ma come bene? Ha fatto quello che doveva fare. Allora, ha perso la Spagna. Sì. Perché ha giocato con una squadra di qualità come la Croazia, ha giocato con tutti i titolari e ha vinto la Croazia. Perciò la Spagna chiaramente è in difficoltà, perché tra qualità, la qualità della Croazia ha avuto la meglio. Noi abbiamo giocato contro la fisicità di questi avversari, con le riserve, ed è chiaro che hanno vinto loro perché fisicamente sono stati superiori a noi. Però noi abbiamo perso con le riserve contro una squadra che ha fatto della fisicità una sua prerogativa, come noi, che siamo una squadra che deve metterla sul piano fisico, la Spagna ha perso coi titolari contro la qualità. Arriverà la Spagna con la sua qualità e noi con la nostra fisicità. Avrà la meglio la qualità della Spagna, che è superiore sicuramente alla nostra, o la nostra fisicità, che è superiore a quella della Spagna? Io punto sull'Italia. Ci fermiamo un attimo per il traffico e poi approfondiamo. Emiliano, stai lì. Tutti convocati. Tutti convocati. Collegato con noi Emiliano Mondonico, che ha fatto la sua disamina. Fisicità contro palleggio tecnica spagnola. Siamo tutti d'accordo, dai. C'è poco da fare. Siamo tutti d'accordo e questo è, insomma, io forse il mister ci stava ascoltando prima, penso che il paradosso no, giustamente è meglio fare, che il paradosso di questo tabellone assolutamente squilibrato è che noi siamo sicuramente nel lato terribile, però in questo lato terribile ci sono delle squadre con le quali paradossalmente forse possiamo fare il tipo di partita che ci riesce meglio, no? Quella basata sull'attesa, perché insomma io l'Italia l'ho vista meglio col Belgio quando ha potuto aspettare e ripartire piuttosto che con la Svezia e con l'Irlanda, quando invece c'era la possibilità tecnica di fare la partita. Ma la partita la devono fare gli altri, perché noi come scelte abbiamo scelto la scuola italiana. Noi abbiamo lasciato fuori, vedete che anche Insigne, che è un po' quello un po' più estroso, viene messo negli ultimi minuti, perché ormai abbiamo sposato la scuola italiana. Diciamo che la cosa mi fa piacere, perché ognuno deve giocare a secondo della propria scuola, e perciò affronteremo delle squadre che dovranno fare la partita e noi agiremo di conseguenza. Perché voi prima, e adesso esco un po' dal tema, visto che ieri ci sono stati, o l'altro ieri, temi di italiano, l'Inghiria. Ricordate il rapporto Inghiria con la politica? No, il rapporto... Non vi ricordate il rapporto Inghiria con la politica? No, che no, la politica italiana era un'Inghiria. Cioè, no. Che colore ha l'Inghiria? Ah, è verde fuori e rosso dentro? Bianca, rossa e verde. Bianca, rossa, sì. Verde. E i semi? Neri. Ecco, quello era il rapporto nel 68-70 tra l'Inghiria e la politica italiana. Parliamo di calcio. Ok, c'era pure la cosa dei pomodori, che quelli di destra dicevano che attenzione a votare i verdi, perché i verdi sono come i pomodori che dentro sono rossi. È vera questa cosa, me la sono sognata, è straordinaria. Beh, siamo al top in quest'epoca post ideologica. Senti, ma la partita di ieri sera però non ha detto niente di buono, no? La partita di ieri sera ha trovami una come, cosa buona. Ha detto, come tutte le partite amichevoli, che noi non siamo una squadra da giocare quando il risultato non conta. In tutte le amichevole abbiamo fatto brutta figura, non mi ricordo un'amichevole dove abbiamo fatto bella figura, perché è chiaro che la nostra maggiore caratteristica è la fisicità, la forza agonistica, e questo esplode quando c'è in ballo il risultato. Quando ne vediamo in campo a fare tic e toc, vincono gli altri. L'uomo, secondo me, che è mancato più alla squadra italiana è stato Candreva, perché Candreva è l'unico giocatore in grado di dare qualità e fisicità su quella fascia. Alle due fasi. Gli altri chiaramente quelli che hanno giocato ieri sera hanno detto a Conte: senti, fai giocare gli altri, perché a noi non so se scappa da ridere o scappa da piangere. Sì, gli altri ci provano. Senti, ma guardando onestamente, fosse stato in Conte contro la Svezia, avresti fatto due calcoli, considerata il tabellone dove si trova ora il Belgio, praticamente a un'autostrada verso la semifinale. Noi arriviamo primi e invece abbiamo l'inferno, il purgatorio e alla fine forse il paradiso, ma è lontano. Assolutamente no. No? Assolutamente no, perché è chiaro che in questo momento la squadra che mi preoccupa di più è la Germania. E la Germania perché la Germania così difficilmente sbaglia gara, però la Germania spesso e volentieri da noi è stata, cioè, ci soffre, cioè è inutile menarla, siamo andati a casa loro e abbiamo vinto noi quando ci sono stati gli europei a casa loro, perciò diciamo l'unica squadra che sicuramente ci farà soffrire, ma dopo noi la mettiamo in difficoltà. La Spagna è chiaro che farà titiche di toga, attaccherà con 6, con 7, non la prenderemo mai per mezz'ora e staremo lì ad aspettarli. Quando la prendiamo, però bisogna andare. Cioè, la grande differenza tra le altre partite è quella di ieri sera, che ieri sera quando la prendevamo la davamo agli altri. Sì, esatto. Cioè, nelle altre gare, quelle 3 o 4 volte che l'abbiamo presa, siamo andati a far del male. Cioè, dopo tutto il resto avviene di conseguenza. Perché? Cioè, tatticamente l'unica mossa che non ho capito è Florenzi in mezzala. Perché è chiaro che penso che sia l'unico giocatore Frenali, che ha giocato fuori ruolo. Per il resto è chiaro che c'è chi ha toppato. Perché Bernardeschi è chiaro che doveva essere un po' il giocatore con più qualità, e invece ha subito un po' il confronto della gara. Però va bene, abbiamo visto tutti, abbiamo notato e hanno notato tutti quanti. Ma Insigne, e adesso lunedì Insigne, non ci sono Insigne. Non ci sono soprattutto così dibattiti, no? Sai, ma sono indeciso. No, penso che sull'11 che andrà in campo lunedì non c'è nessuna indecisione da parte di nessuno. Insigne tu lo faresti giocare, cioè subentrare come Zaza. Cioè, è tutti i giocatori che quando subentrano fanno la differenza. Quando partono dall'inizio diventa un problema. Cioè, è importante avere anche giocatori che quando subentrano chiaramente fanno la differenza. Il numero uno è Totti, che quando subentra chiaramente ha fatto vincere non so quante volte la Roma la partita. Quando parte dall'inizio, chissà perché, si va un po' in difficoltà. Perciò accettiamo chi subentra facendo presente che chiaramente è un ruolo anche questo, sono giocatori importanti anche questo. Io mi auguro che non ci sia bisogno di questi subentri, perché vuol dire che la partita la stiamo comandando noi, e perciò è giusto magari levare Candreva, mettere De Sciglio, mettere un terzino in più, perché stiamo vincendo, difendiamo il risultato. Sì, certo. Però in caso di bisogno sappiamo che abbiamo anche degli uomini in panchina che cambiano il verso della gara. Perché non giocano prima dall'inizio? Perché se gioca dall'inizio non fanno nessun verso. Grazie Emi, grazie Emiliano. Grazie, ciao, grazie, ciao, grazie, ciao, grazie ciao, a voi, ciao. E se volete mangiare una fetta d'anguria, no, di inghiria, dillo bene, dai, ci dice inghiria. No, questo è Bergamo. L'anguria è Bergamo, dai. Dai, Gari, pota. Confondi a Milà con Bergamo, perché l'uranza mia non sa capire mia. Sì, non, sì, non sì. Venite, io sono. Non tutti, mi confondere con l'accento bergamasco, sto traducendo. Io conosco più i dialetti delle lingue, perché a scuola io studiavo il dialetto. Ma l'accento di Gaeta lo conosci? Cagumbanato. Ah, ecco, lì così sono andato un po' in difficoltà perché il naso non riesco a usarlo. Grazie Emiliano. Ciao Emiliano Mondorico, dobbiamo andare a trovarlo. Dobbiamo andare a trovare. Io fra l'altro punto al pranzo, ti dico, anche, a fare la diretta da lì, poi tu fai la diretta, io dico una cosa ogni 5 minuti, così bravo, tranquillo. Capito, tu sei quello preciso del gruppo. Bravo, De Luca che coordina i collegamenti, è contento perché dirà finalmente si sente, perché trasmettiamo in diretta. Ci dicono sull'inguria c'è il panico, si è creato il panico, melone giallo, melone rosso, più facile di così, ci scrivo da Napoli. Vabbè, ok, non va arrabbiato. Melone di pane e melone d'acqua, ci scrive Enzo. Diciamo che zucca, detto, com'è che l'ha detto? Zucca. Chiaramente ha creato subito del trambusto sul web, però è zucca ragazzi, sì, zucca, pumpkin, it's pumpkin, Roccapalumba si dice muluni, beh è importante, salutiamo gli amici roccapalumbesi, prego. Angelo, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti, praticamente sono stato anticipato perché il mio contributo era appunto sull'anguria. In provincia di Bari, Monopoli, sì. La distinzione è, melone entrambe, ma melone cosiddetto melone di acqua, cioè quello rosso, Manana da pena, cioè di pane, sì, appunto, quello giallo. Anche qua, diciamo, quindi, melone di pane. Quindi di non pena. Dobbiamo confonderci, perché se io vado, arrivo lì e chiedo un'anguria... Attenzione, De Luca, il tema del melone. De Luca è partito, parla al microfono. No, allora, dillo. Che in Sardegna si dica zipangulu. Adesso non è che qua, perché secondo me qua è pieno di gente che scrive porcate. Chi è Alessandro? Alessandro Crimeni. Ah, e allora lo conosciamo? È un follower. Mazza, De Luca parla bene. Ok, no, quindi melone d'acqua e melone di pane. Beh, mi sembra quindi melone d'acqua è il cocomero, diciamo, l'anguria. Esatto. Mentre il melone, l'altro è il cantalupo, no? Il... Sì, è più o meno così. Benissimo. Perché siamo finiti qui? Non lo so, ma com'è nata la cosa del melone? Chi è stato il primo? La miccia qual è stata? A Ricci che si mangia. A Ricci che diceva cocomero. Lassù in Francia si va ancora a mangiare. In fase REM, ancora in fase assonnata. Cocomero con la birra. Vabbè, ragazzi. Marco, ma volevi dirci altro, Angelo? No, era solo sul melone. Beh, straordinario, Ci fermiamo, un attimo per il GR. Torniamo. Marco da Bergamo, stia lì. Poi Pierluigi, mi saluti adesso o tra 5 minuti? Ma no, ti saluto fra 5 minuti perché dovevo parlare di Schwarz. Come dirà melone? Guarda, non me lo chiedere. No. Siamo in tedesco, come si dice? In Alto Adige. Vate a Melon. Un Glaublich. GR. Finisce qua, senza recupero il primo tempo. Gran spettacolo. Tutti convocati. L'unico inimitabile programma di attualità ottimista. Siamo sicuri di farcela? Sicurissimi. Allora che la forza sia con noi. Si può fare con Alessio Maurizi e Carlo Gabardini il sabato alle 7:30 e la domenica alle 8:30 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Assicom. Vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. State ascoltando un programma offerto da Tifiamo per tutti i tifosi. SNAI Easy Play. Play with the Playmakers. Si ricomincia. Tutti convocati. Allora, prima di salutare Pierluigi Pardo, e visto che tra poco ne parleremo con Giorgio Rondelli, volevo sapere qual era la sua opinione, la sua sensazione. Scusa, adesso parliamo di Schwarz. Ma ci scrivono prima che anguria e melone a Firenze e provincia si chiamano cocomero e popone. Sì, vero. Il cocomero e il popone, un bel popone, Poi c'è vero, quello del Salentino, c'è scritto uno me lo sono perso. C'è uno che ci scrive Salento Sarginiscu. Sì. Sarginiscu. Inglese come Puglia, watermelon, melone d'acqua, mi sembra dai che il dibattito a Cusenza, melone ad acqua per gli anglofoni, watermelon. Zipangulu è sempre le prime. In genovese si dice patecca. In Abruzzo chiedi Lucitron, da non confondere con l'Utrimun, che era un'altra roba. A Lecce Sarcenisi. Beh, insomma, veramente. Ecco, poi questo si ricollega al discorso di Conte, no? Di vestirsi tutti blu uguale. È complicato vestirsi azzurro tutti uguale, perché questo è un paese dove l'azzurro a Cosenza è un filo più chiaro, l'azzurro a Catanzaro è un filo più scuro. È anche la bellezza del nostro paese. Guarda, su Svizzera, io chiaramente non sono un esperto della materia, non sono un esperto né di doping né di antidoping. Golletto come te. Perché io l'umore della gente dice che si stanno dividendo in maniera quasi paritaria tra colpevolisti e innocentisti, cioè tra chi sostiene la tesi, ok, l'ha fatto di nuovo, e quelli che invece dicono è un complotto, vogliono fare fuori lui, vogliono fare fuori Donati, che è un personaggio, il paladino dell'antidoping, un personaggio scomodo per molti. Sì, guarda, allora io penso questo, che io certezze chiaramente non ne ho e mi sembra veramente difficile azzardare. È chiaro che qui delle due l'una, cioè o è un complotto. Esatto, non ci sono dubbi. O è un complotto o è un... insomma, voglio dire, o ha fatto un... clamorosa, perché poi insomma ricadere in questo tipo di situazione sarebbe, usiamo il condizionale, assurdo. Non credo che ci siano strumenti dall'esterno per poter dire. Io sentivo ieri Arrigoni, leggo i giornali, so benissimo di questo primo controllo negativo che poi il 12 maggio è diventato improvvisamente con un'altra tecnica positivo. il confine fra doping e antidoping sappiamo che certe volte è anche piuttosto labile, piuttosto tecnico, tecnicistico. Detto questo, aspettiamo. Io non credo veramente che ci siano altre soluzioni. Dispiace vedere la divisione, no? Perché su una materia così tecnica, della quale nessuno di noi ha visto le provette, ha visto i campioni e fa il tecnico di laboratorio, è difficile. Però è la cosa più umana del mondo pensare o che sia ricascato in un errore clamoroso o che oppure o che invece ci siano che abbiano voluto ieri sentivo farlo un ascoltatore che a un certo punto è abbastanza incazzato, ha chiamato non lo state uccidendo un'altra volta, no, stiamo facendo della cronaca, nessuno vuole uccidere, anche cronaca. Perché penso che tutti tifiamo per lui, notizia, no? È un atleta italiano di grande livello, quindi saremmo soltanto felici a condizione che però se le notizie arrivano è giusto darle. A proposito di notizie, il mio amico Alessandro, il grande protagonista della puntata, ci dice che in Calabria Zipangolo e Pizzitangolo è il cocomero o l'anguria, se preferite, a distanza di 10 mai km sentita da Zipangolo a Pizzitangolo. Poi mai, adesso mi scriverà anche la località. Mai sentita. Senti, parliamo insieme con Antonio da Pescara, poi ti saluto. Vai. Antonio, buongiorno. Buongiorno. Soltanto una considerazione. Uno, su quanto è triste sentire Mondonico che dice che la nostra cultura calcistica è quella di difenderci e all'occasione attaccare, quindi come se noi non potessimo cambiarla sta cultura, per cui tutti i nuovi tecnici che si adoperano per fare un gioco diverso li mandiamo tutti via. E un'altra, secondo me, è che in questa nazionale, ieri si può parlare di Buonaventura, no? L'unica persona che manca al centrocampo si chiama Verratti. Però lì non ci si poteva far nulla, troppo rotto. Ma anche con Buonaventura non si poteva far nulla, non c'è, quindi o non parliamo no, Buonaventura si poteva convocare, cioè Buonaventura non era infortunato, Verratti invece si poteva portare. Io sono dell'idea che Buonaventura, Giorginio e in qualche modo anche Vasquez forse sono giocatori che io avrei portato, però non mi sento di dire a Conte che la nazionale gioca male, cioè che con Buonaventura e Giorginio adesso saremmo il Real Madrid, no, neanche il Real Madrid, il Barcellona di Guardiola. Quanto al resto, Pier, però attenzione, la nostra cultura, cioè noi. La nostra cultura credo, prevalente, lo stereotipo del calcio italiano è quello. Calcio italiano è anche Sacchi. È come si gioca, il calcio italiano è anche vincere Sacchi, 5-0. È come si gioca all'oratorio da bambini. Cioè direi che ogni popolo ha nel DNA un certo modo di interpretare prevalente. Perché il calcio italiano è Berzot dell'82, sicuramente storicamente è stato spesso catenaccio e contropiede, ma è stato anche il sacchismo, per esempio, è stato anche l'ascoltatore di Pescara. A Pescara quest'anno si sono goduti Oddo, nel passato recente si sono goduti pure Zeman nell'anno della promozione in Serie A, cioè vuol dire, non è che per forza il calcio italiano sia attesa e ripartita. Con questa squadra, con questo talento che abbiamo, che non è molto e soprattutto è un talento più di corsa, più di lotta che di qualità, è abbastanza obbligata come tipo di scelta, quindi io credo che questo fosse il riferimento di Mondonico. Poi Mondonico certamente non l'ha mai nascosto, per cultura e per filosofia è un allenatore così, che ama aspettare e ripartire, quindi ce l'ha nel DNA e gli piace molto questo tipo di atteggiamento, che poi non è molto diverso dal tanto celebrato ciolismo che abbiamo visto dall'Atletico Madrid nelle grandi notti di Champions. Quindi, assolutamente, la verità è che dipende anche molto dagli avversari, nel senso che quando tu hai di fronte, esattamente come l'Atletico Madrid contro il Real e contro il Barcellona, hai degli avversari più forti di te, che hanno più budget, che hanno più qualità nel palleggio, è abbastanza obbligatorio giocare in quella maniera. Quello che mi è dispiaciuto sicuramente è non aver visto l'Italia contro la Svezia e contro l'Irlanda fare due partite di qualità di proposizione, perché non ce l'abbiamo, e dal punto di vista tecnico penso che Svezia e Irlanda non siano inferiori a noi. Ciao Pier, grazie. Non siano superiori a noi. Grazie. Ti saluto. Ti aspetto presto. Vado a mangiarmi un inghiri. Un inghiri. A casa del mondo. Allora, argomento Schwarzer. Come 4 anni fa sono di nuovo qua a metterci la faccia per rispetto nei miei confronti e chi mi è stato vicino e mi è tuttora vicino. Però oggi non ci saranno nessune scuse, non devo scusarmi per nessun errore che non ho fatto e come 4 anni fa, lì ho sbagliato, stavolta io non ho fatto nessun errore. Mi sono reso conto ad un certo punto che lo aiutavo sia a crescere come atleta, ma al tempo stesso diventavo il suo handicap, perché l'odio che c'era nei miei confronti per le mie lotte passate doveva trovare una vendetta. Probabilmente qualcuno non vuole che io vada alle Olimpiadi, io ancora ci credo. Se non ci riusciremo, perché è il 22 di giugno e la positività è del 1° di gennaio, ma è stata accertata il 13 di maggio, quindi stranamente è passato di nuovo un po' di tempo. Quindi i tempi sono abbastanza stretti, però almeno di quello che è successo con questa prova, questa provetta, io darò il 100% per chiarire. Questi sono degli estratti della conferenza stampa di Schwarzer e di Donati ieri pomeriggio alle 6. Ritroviamo un vecchio e caro amico, Giorgio Rondelli, che ben conoscete, ex allenatore di Cova, Panetta e di grandi campioni italiani, grande esperto di atletica e non solo. Ciao Giorgio. Buongiorno Carlo. Allora, l'Italia si spacca, si è spaccata, si è divisa totalmente, si è frammentata tra i sostenitori della tesi del complotto, chi dice vogliono far fuori Schwarzer, è scomodo, vogliono far fuori Donati, è scomodo per molti, non solo in Italia ma anche a livello della IAF, e quelli che dicono c'è cascato di nuovo, quindi a rogo. Diciamo che la vicenda Schwarzer è molto lunga, è una vicenda molto, molto articolata. E chiaramente si è arrivati, come hai detto tu, a delle fazioni contrapposte con molta animosità, molta ferocia. Perché? Perché è chiaro che un'operazione di recupero da parte di un campione olimpico, personaggio comunque sempre alla luce dei riflettori come Alex Schwarzer e del professor Donati, che è stato, diciamo, il campione della lotta al doping che ha sempre condannato ferocemente il doping, che si è messo a disposizione con uno staff molto qualificato per recuperare dal punto di vista sia etico sia fisiologico alle Svazie, non poteva che essere un'operazione molto, molto spettacolare. Anche questa spettacolarità, a mio avviso, non so se voluta o non voluta, sicuramente ha indispettito una parte dell'opinione pubblica o comunque degli addetti ai lavori, da atleti a giornalisti a telecronisti, che invece abbiamo avuto l'uscita di Tamberi, abbiamo avuto, esatto, varie voci contrastanti, così dicendo. Credo anche che poi una sorta di concomitanza di tempistica abbia nociuto, perché lui ha finito la squalifica il 29 di aprile e l'8 maggio era di nuovo in nazionale, anche perché era già una condizione sine qua non per poter andare a Tokyo, quindi ha gareggiato nella Coppa del Mondo vinta brillantemente a Roma sui 50 km. Quindi queste due fazioni sono andate avanti così, dicendo da una parte è stato recuperato l'uomo, è stato recuperato l'individuo, è stato recuperato l'atleta, però ricordiamoci che non è che lo seguissero delle persone sprovvedute, perché fino a prova contraria nel 2008 era seguito da Sandro da Milano quando vinse l'oro, quindi dal punto di vista della preparazione credo che al di là di non possa essere stato inventato niente di particolare. Dal punto di vista etico sicuramente la figura di Donati è stata positiva, però ci sono, io credo che tutte le posizioni vadano comunque rispettate. Invece si è creata una sorta di situazione di fans calcistici, da una parte di una sorta di tribunale dell'inquisizione, no? I dopati non devono più rientrare, vanno radiati a vita, o comunque non devono mettere più la maglia della nazionale. E lì ha anche inciso, Carlo, il fatto che la federazione a fine 2013 avesse emanato un codice etico per cui dopo 2 anni un atleta positivo squalificato oltre 2 anni non poteva mettere la maglia, rimettere la maglia azzurra. Si è detto poi che non poteva avere valore retroattivo questa norma, e vabbè, poi ognuno qui la pensi come vuole. Rimane adesso questo dato di fatto clamoroso, perché è un atleta che è stato testato tantissime volte, sia a livello generale sia a livello anche privato dall'equipe di Sandro Donati. Perché un test fatto il 1° di gennaio non ha riscontrato niente di negativo, e invece il test era fatto il 13 maggio dal laboratorio di Colonia, che è giudicato affidabile dal Sesto Tonati, è stato trovato invece positivo, perché nel secondo test non si è più mirato al passaporto sanguigno biologico, che sia il passaporto steroideo, e quindi una volta analizzato con un sistema di ionizzazione con un fascio di elettroni messi dentro un analizzatore, sono venuti fuori dei precursori di testosterone sintetico che sono estranei a una crescita endogena, cioè non potevano essere stati prodotti dall'organismo, a questo punto quali possono essere le ipotesi? L'integratore avariato? Direi di no, perché lo stesso Donati e Fazer hanno sempre sostenuto di non aver mai preso integratore, perché in passato ci sono stati vari casi di integratori avariati con percentuali di anabolizzanti o di cose così non dichiarati sul bugiardino, e qualcuno poi ha finito per pagare anche con la squalifica. Quindi le ipotesi sono: o è stata presa dei microdosaggi, e sarebbe stato folle se l'avesse fatto Alex per conto suo, per migliorare col testosterone la possibilità di allenarsi meglio e recuperare meglio, oppure c'è la tesi del complotto. La prima situazione, la presenza di questa evidenza è stata dimostrata. Potrebbe neanche escludere a priori, vorrebbe dire che qualcuno gli ha fatto prendere qualcosa per volerla incastrare. Sì, non c'è una terza via, no. Non c'è una terza via. O si è fatto fuori da solo, l'hanno fatto fuori. Folle, perché sarebbe folle, certamente. Come ha coinvolto l'altra volta? Io ho letto una sua dichiarazione. Io mi sono, voglio dire, ho sempre cercato di vedere dal di fuori, così quando lui ha detto ho pagato solo io la prima volta, no, non è vero, ha pagato Carolina Kostner, ha pagato l'arma dei carabinieri, ha pagato la marcia italiana, ha pagato l'atletica italiana, non ha pagato i suoi sponsor. Credo che sia un dato di fatto. Adesso avrebbe coinvolto delle persone che hanno un passato molto importante di assoluta dignità nella lotta al doping, adesso ci sarà delle controanalisi che verranno fatte entro il 5 di luglio, e dopodiché si arriverà a una soluzione. Sì, si arriverà a una sicuramente soluzione parziale. Donati ha dato fastidio a molte persone, quindi sicuramente molti, vederlo magari andare in difficoltà, possono essere contenti. Alex, possono essere, non lo so, c'è chi dice che anche ambienti della marcia internazionale, se potessero vederlo cadere di nuovo, sarebbero contenti. Però anche qui fare delle denunce anonime, allora se io è chiaro, sono convinto, sono che c'è solo qualcuno, supposizioni, un nome, sono solo supposizioni. Sennò... Giorgio, fai i nomi e ci vogliono le prove, sono solo supposizioni. Però a questo punto i contorni della vicenda non sono ancora chiari. E quindi ha piena legittimità, secondo me, anche l'ipotesi del giallo secondo cui. Quei campioni potrebbero essere stati manomessi, o comunque sia stato tratto in inganno volontariamente da qualcuno. Avremo modo di risentirci molto presto, Giorgio Rondelli. Ti ringrazio, grazie Giorgio. Forse una partita di calcio metteremo 1x2, sì, sono d'accordo con te, metteremo 1x2. Grazie Giorgio, ci sentiamo presto. Giacomo Pagnasco, buongiorno. Buongiorno Carlo. Tu vuoi che io parli di rugby? Io invece ti faccio subito una battuta calcistica. Vai. Che è la battuta che circolava ieri. Contro l'Irlanda finalmente non abbiamo preso neanche una meta, sì. Però abbiamo perso lo stesso. No, io volevo raccontare agli ascoltatori una cosa curiosa, perché insomma, con gli spagnoli che affronteremo di nuovo lunedì, per l'ennesima volta non li eliminiamo da una competizione ufficiale, da Stati Uniti 94, dai mondiali, da quella famosa partita della Comitata di Tasso di Luis Enrique, eccetera, eccetera. Arriviamo in finale eliminando la Spagna. Da allora non siamo più riusciti ad eliminarli in una grande competizione internazionale. Se c'è uno sport in cui non ci facevano paura era il rugby. Certo, almeno a livello maschile, a livello femminile. E adesso invece cosa succede? Non dirmi che c'è una nuova ondata di spagnoli anche nel rugby. Beh, guarda, non cambiamo il perimetro di gioco, cambiamo il numero dei partecipanti, giocatori. Ma Nel rugby a 7 la Spagna si sta affermando. La Spagna, completamente a sorpresa, al torneo di repêchage di Monaco per l'ultimo posto utile per partecipare alle Olimpiadi di Rio, ha battuto in finale Samoa, che era la stragrande favorita con una meta all'ultimo secondo, e quindi la Spagna andrà a Rio alle Olimpiadi. E se arrivano anche nel rugby, come la mettiamo? Non lo Dove so, li battiamo? Ti posso dire a freccette? Abbiamo continuato a dire che c'erano pochi posti per le europee, cioè solo due, e quei due se li ha aggiudicati la Gran Bretagna, che gioca mettendo insieme tutto, in questo caso Scozia e Galles e Inghilterra, e la Francia. Nessuno si aspettava che ci fosse un terzo posto, quindi questo potrebbe teoricamente darci speranze per il futuro, ma intanto questo terzo posto se l'è preso la Spagna in una settimana che per il rugby europeo sta andando bene, insomma in un momento in cui sta andando bene, perché l'Inghilterra per la prima volta ha vinto una serie in Australia battendo l'Australia in due partite su due. L'Italia nel Tour delle Americhe non va male, ha perso dall'Argentina 30-24, l'Argentina quinta nel ranking mondiale, ha battuto 24-20 gli Stati Uniti e ora deve giocare in Canada. Per la prima volta nei mondiali under 20 la finale sarà tutta europea tra Inghilterra e Irlanda. E quindi e tra l'altro gli spagnoli si sono pigliati anche la attesissima finale del campionato francese, naturalmente direi. Anche qui c'entrano gli europei di calcio, in realtà non si poteva giocare allo Stade de France, che è il luogo deputato a questo rito della finale a cui assiste il Presidente della Repubblica e così via, e allora si è puntato sul Nou Camp di Barcellona. Diciamo la catalanità di Barcellona un po' aiuta, il Perpignan, squadra francese catalana, aveva giocato delle partite di Coppa Europee allo Stadio Olimpico di Barcellona, ma questa è la prima volta che il rugby sbarca al Nou Camp, e già che ci siamo venerdì sera su Eurosport, fra parentesi, c'è il tutto esaurito, 98.000 spettatori, e sicuramente la stragrande maggioranza arriverà dalla Francia, ma anche spagnoli ce ne saranno. Polverizzato il record per una partita di club di rugby, era stato stabilito da poco a Wembley per Saracens Harlequins 84.000, e adesso facciamo le cose un po' più in grandi tra Francia e Inghilterra, la grandeur ci prendono anche nel rugby, questa non l'avrei mai pensata. Senti, finisco di parlare con gli ascoltatori, ce ne sono due rapidamente. Sergio, buongiorno. Buongiorno, grazie della vostra convocazione. Io vorrei riallacciarmi un attimo al discorso prima che si faceva su Sbarter, no? Sì. Io ho notato delle cose partendo un po' più a ritroso da quello che si è sentito in questi giorni, in pratica partendo dalle Olimpiadi che lui ha fatto nel 2008, dove ha vinto, no? E aveva vinto secondo me in condizioni di anche di temperature molto difficili. Sicuramente nel 2012 hanno fatto dei tempi che secondo me, per quello che era il suo stato di allenamento del momento, erano molto più alti, no? Sì. E quindi lui arrivava in una condizione secondo me molto positiva in quel momento lì, ed è già stato strano così che lui abbia dichiarato questa cosa pochi giorni prima della gara, no? E io vedo, non lo so, mi sembra di vedere delle similitudini con la vicenda di Pantani su queste cose, non so cosa ne pensate voi. No, qualche similitudine, qualche flash alla memoria viene, quantomeno dal punto di vista emotivo, perché in quel caso l'idolo venne tirato giù dal piedistallo e da lì fu la catastrofe. In questo caso l'aspetto predominante è quello dell'incredulità, cioè non ci puoi credere che con uno come Sandro Donati, che è il nume tutelare dell'antidoping in Italia, con questa storia alle spalle, con il ritorno alle gare, non ci puoi umanamente credere che ci sia ricascato di nuovo, quindi è un mistero attualmente, io lo considero tale che non ha al momento soluzione. Grazie a tutti, grazie Giacomo Bagnasco. Ti dico una cosa veloce, la finale Tolone Racing, forse non l'avevamo detto, del campionato francese, e poi un grazie e un saluto sincero al guerriero Andrea Masi, rugbista azzurro, che ha detto basta. Grazie, grazie Giacomo Bagnasco, Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Federico Bini in redazione. Ci sentiamo domani alle 2, ragazzi. Che spettacolo, da brividi!